Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. C'è un luogo nel nostro pianeta dove le costellazioni si presentano a testa in giù e le stagioni vanno al contrario. Vuoi sentire una storia? Che storia? C'è una ragazza e c'è una specie di uomo magico. E poi c'è un forte... come una tempesta. I giapponesi spazzano il Sud Pacifico e si dirigono verso l'Australia. E questa storia si svolge in una terra lontana. Australia. 22 milioni di abitanti sparsi su una superficie di 7.617.930 chilometri quadrati. Oceano Indiano a sud e ovest e Oceano Pacifico a est. Popolata dagli aborigeni per più di 40.000 anni, il sesto paese al mondo per estensione, è stato colonizzato dagli inglesi a partire dal XVIII secolo e oggi i suoi abitanti, che chiamano se stessi Ossi, sono un popolo multiculturale, il cui governo formale al di sopra del Parlamento spetta alla regina d'Inghilterra. Ma a poco servono i dati di fronte a uno scenario che toglie il respiro in questa terra lontana che brulica di vita e di emozione. Come la storia di cui vi parleremo oggi, a Destini Incrociati. La storia di due splendide figlie degli antipodi che da quell'angolo remoto del pianeta sono partite alla conquista di Hollywood. Due amiche, due colleghe, due star bionde come il sole d'Australia che di questo luogo magico hanno fatto la loro terra d'adozione. Si chiamano Naomi Watts e Nicole Kidman. Naomi Watts, Nicole Kidman. The lunatic is in my head. The lunatic is on the grass. La risata che abbiamo ascoltato a metà di Brian Damage, dei Pink Floyd, tratta dall'album The Dark Side of the Moon, è quella di Peter Watts, per anni tecnico del suono del leggendario gruppo britannico e padre di Naomi. Ascoltare quella risata nel disco è forse il solo modo che Naomi ha per ricordarsela, perché ha solo 7 anni, quando nel 1975 papà muore per colpa di un attacco cardiaco. Mio padre e mia madre divorziarono quando avevo 4 anni e poi mio padre morì. Io avevo 7 anni e mia madre restò sola ad allevarci, ma era un hippie, che non significa che vivevamo in una comune di figli dei fiori. Però ad esempio cuoceva il pane da sé e non era affatto buono. Cose così, insomma. May Fanny Glenys Edwards, la mamma, è un'antiquaria e designer di origini gallesi che ha scelto di mettere su famiglia con Peter Watts nel cuore del Sussex occidentale, Inghilterra. Precisamente a Shoreham, dove nasce la stessa Naomi. Accantonare il suo spirito libertino le è sembrato naturale quando ha visto per la prima volta l'uomo con cui era certa fin dall'inizio di voler passare la vita. Psichedelico lui, colorata lei, sono una coppia eccentrica e innamoratissima, che non si cura di quello che dicono i benpensanti. Lei passeggia nuda per il giardino di casa, non per esibizionismo, ma per totale mancanza di pudore. Mentre lui ascolta musica e strimpella con una chitarra elettrica, sognando almeno per una volta di salire sul palcoscenico, anziché guardarlo da dietro le quinte. Se Peter indossa sempre la stessa maglietta nera, May Fanny, dal nome sbarazzino che tanto ricorda la Holly Golightly, Holly Valeggera, di colazione da Tiffany, ha sempre addosso tutti i colori dell'arcobaleno. Al cappello di paglia col fiocco rosso abbina una canotta verde. Ai jeans strappati gialli, ancora troppo sobri per i suoi gusti, si diverte ad aggiungere frange che superano di gran lunga l'orlo originale e riescono a coprire gli zatteroni comprati nei mercatini alla moda della swing in London. Un papà rock e una mamma dalla stessa Naomi definita un hippie un po' fuori di testa non sono, almeno sulla carta, i migliori mattoni per la costruzione di un ambiente familiare solido e tradizionale. Ma di certo in casa Watts ci si diverte alla grande. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Mentre Peter e My Funny Watts, nella verde Inghilterra, vedono nascere la loro piccola Naomi, Nicole Kidman ha già un anno e gioca su una spiaggia con ben altre temperature. Honolulu, Hawaii. Sole costante, caldo tutto l'anno e acqua trasparente nella quale immergersi per andare alla scoperta della barriera corallina. Il professore emerito Anthony Kidman e la moglie Janelle, entrambi di origini australiane, sono appena sbarcati nell'isola. Ad accoglierli all'aeroporto, la tipica ospitalità diventata mitica attraverso i film. Ragazze bellissime che danno il benvenuto con la tradizionale ghirlanda di fiori, musica e un paesaggio che toglie il respiro. La coppia è alle Hawaii per lavoro, ma l'incanto dell'isola del Pacifico li fa propendere anche per momenti decisamente più romantici. Il ritorno a casa è continuamente rimandato e quando Janelle resta incinta, aspettare Nicole in quel paradiso sembra davvero magico. Our first guest is a lovely, lovely woman and a very talented actress. She has a brand new motion picture entitled The Others. It opens August 10th. Ladies and gentlemen, here's Nicole Kidman. Naomi Watts e Nicole Kidman non sanno ancora che i loro destini, le loro vite, le loro carriere presto si incroceranno. Per ora, bambine, sono ancora lontane, una in Inghilterra e l'altra alle Hawaii. Lontane anche dal luogo che le vedrà crescere, diventare donne e soprattutto muovere i primi passi nel cinema. La prima a raggiungere l'Australia è Nicole, che dopo un breve periodo negli Stati Uniti a Washington si trasferisce con i genitori e la sorellina Antonia a Sydney. È abituata a spostarsi per via del lavoro di papà, che viene chiamato a tenere conferenze in tutto il mondo. E appena può porta con sé tutta la famiglia. Ma quando arriva a Sydney non ci mette molto a capire che quel luogo le entrerà nel cuore. Ho sentito una vibrazione, una sensazione del tutto nuova che non avevo mai provato prima. Ero solo una bambina, ma per la prima volta ho capito che puoi anche vivere nei luoghi più belli della terra, ma prima o poi senti il richiamo di casa. Naomi nel frattempo perde il papà e deve aspettare ancora qualche anno prima di raggiungere la sua patria d'elezione. Mamma My Fanny, da tutti detta Miv, senza il suo Peter si perde. Al di là del profondo dolore per aver perso l'uomo della sua vita, è completamente in balia degli eventi. Lei, sognatrice un po' infantile con nessuna praticità, si era affidata a lui per tutte le incombenze quotidiane, dal pagare le bollette a fare i conti, dalla spesa al supermercato agli incontri con le maestre di Naomi. Non che a lei non andasse di farlo, semplicemente sentiva che Peter era più bravo e che in fondo questo lo rendeva il capo famiglia. Era un equilibrio apparentemente precario, ma in realtà solidissimo. Peter era per Miv il suo contatto con la realtà. Miv era per Peter l'allegria. Ma adesso che è sola, con due figli piccoli, senza un soldo, senza un lavoro, e come solo obiettivo molto vago in realtà, quello di intraprendere la carriera di attrice, decide di portare e affidare Naomi e il fratello ai suoi genitori che vivono sull'isola di Anglesey, nel Galles nord-occidentale, sperduta località che vanta tuttavia il luogo con il terzo nome più lungo del mondo. A pronunciarlo per noi è la stessa Naomi in una recente intervista. And what is the name of the town in Wales? E qual è il nome della città in Galles? Llangefni. Scusa? Ma è un'abbreviazione. Se vuoi ti dico il nome intero. Yeah. E cosa significa? I don't know. Non lo so. Significa chiesa di Santa Maria nella valletta del Nocciolo Bianco, vicino alle Rapide e alla chiesa di Sant'Isilio, nei pressi della Caverna Rossa. Ed è qui che la piccola Naomi cresce e studia fino all'adolescenza, meticolosa, precisa, ordinatissima, al contrario dei suoi coetanei. La mamma ogni tanto va a salutarla, senza preoccuparsi troppo di chiederle come va la scuola o se le serve qualcosa. È troppo presa dai suoi tentativi di diventare attrice, tutti fallimentari. Sua figlia da lei non ha preso niente tranne questo, la passione per la recitazione. Frequenta dei corsi il pomeriggio, che chiudono l'anno con quelle recite che emozionano al momento e diventano imbarazzanti riviste anni dopo. Comunque, fare cinema diventa il sogno di Naomi. Non si sa se per riscattare l'orgoglio di sua madre o se per dimostrarle di essere migliore. C'è sempre una forma di rivalità tra madre e figlia, ma nel mio caso non è stato per niente facile avere una mamma così ingombrante. Tutti i miei amici non vedevano l'ora che venisse a trovarmi, perché la trovavano divertente. Io invece alcuni momenti avrei voluto una mamma più normale, che mi aiutasse a fare i compiti. Inghilterra, Galles e Australia. Tre paesi che proveranno tutti a contendersi la paternità della bionda ragazzina quando diventerà una star. Ma riguardo alla sua nazionalità, Naomi Watts stessa si definisce con queste parole. Ho passato 14 anni della mia vita tra Inghilterra e Galles e non le avrei mai volute lasciare. Considero me stessa una britannica e ho felicissimi ricordi di quei tempi. E quando sono arrivata in Australia avrei voluto scappare via. Ma in realtà ora mi considero una vera australiana e sono ancora molto legata a quel paese. Quando mi chiedono quale sia casa mia, la risposta è l'Australia, perché è là che ci sono i miei ricordi più importanti. Se Naomi Watts sente di non avere una nazionalità del tutto definita, Nicole Kidman non ha dubbio alcuno. La sua patria è l'Australia e Sydney la sua città del cuore. Sydney, affacciata sul Pacifico, è una meta importante per il turismo locale e internazionale. Il suo porto avveniristico, la bellissima costa, il clima piacevole e la cultura cosmopolita le hanno permesso di essere eletta una delle più vivibili città del mondo. Ma di certo il suo simbolo, che fa capolino dall'imponente skyline, è la celeberrima Opera House, progettata dall'architetto danese Jørn Utzon e che, dopo essere stata completata nel 1973, è entrata nei patrimoni protetti dall'UNESCO. Nicole è ancora piccola quando i lavori cominciano, ma può vedere le fondamenta che prendono vita e i muri che salgono. Si ricorda quando all'ora del tramonto lei e papà si sedevano su una panchina con il mare di fronte a immaginare che quel tetto che sembrava fatto di ali un giorno spiccasse il volo come un uccello. Con papà ero libera di lasciare andare la mia fantasia. Mi ha sempre rispettata come essere umano. Anche quando ero una bambina, mi chiedeva cosa pensavo di una cosa e dell'altra. Mi voleva bene e gli interessava sapere come vedevo il mondo. Credo di essere rimasta sempre quella per lui. La bambina che guardava il mare, anche quando sono cresciuta. Bellissima, pelle diafana e lunghi capelli rosso naturale. Nicola, a 16 anni, è già alta quasi 1,80 m e non è difficile notarla. Non ha quella bellezza aggressiva che fa voltare i ragazzi per strada, ma ha un fascino glaciale che crea soggezione. È spesso sola, invidiata dalle ragazze ed evitata dai ragazzi che se la sognano la notte ma ne sono intimiditi. E così, determinata come una macchina, mette tutta se stessa nella sua passione. Presso l'Australian Theatre for Young People prende lezioni di balletto, di mimo, di dizione, con la meticolosità e il perfezionismo che sarà il tratto peculiare di tutta la sua carriera. Nicole in questo periodo stringe amicizia con un ragazzone di origini neozelandesi trasferitosi a Sydney, anche lui con in testa il sogno di diventare un attore. Si chiama Russell Crowe ed è belloccio, molto simpatico, non prende mai niente sul serio ed è un gran sportivo, ama il rugby e spesso trascina gli amici e Nicole a vedere qualche partita. Sydney è infatti la casa dei New South Wales Waratahs, una delle squadre più forti al mondo. And there's the first points at ANZ Stadium. So a handy start for the New South Wales Waratahs. They lead by 3-0. Nicole, tra un corso di recitazione, una partita e una nuotata a Bondi Beach con gli amici, riesce a farsi notare dalle persone giuste. Prima è scritturata dalla televisione per 12 episodi della serie Five Mile Creek, dove comincia a farsi le ossa tra le urla del regista e i capricci delle comparse che vogliono fare le star. Poi, nel 1983, debutta al cinema nella commedia per bambini Bush Christmas. Ma proprio quando la sua carriera sembra essere davvero iniziata, Nicole deve fermarsi. Alla adorata madre Janelle viene diagnosticato un cancro al seno e lei si mette a totale disposizione della famiglia. Anche questo comportamento è in linea con il carattere che Kidman sta forgiando, sensibile e fragile nel suo mondo interiore artistico, ma fortemente determinata e responsabile nella vita reale. Io sono un tipo di persona che porta con sé ogni cosa che gli è successa in passato, ma non mi faccio mai condizionare. Credo nell'amore e nella felicità e so che prima o poi mi accadrà. Anche se non so come potrà essere la mia vita, io non mi dispero mai e guardo avanti. Mio padre mi ha sempre detto: Nick, la vita è ciò che è, non come dovrebbe o potrebbe essere, ma è ciò che ci accade. E io mi sono sempre portata dentro queste parole. Mentre Nicole è alle prese con le prime scelte di vita importanti, per Naomi Watts è giunto il momento di conoscere la sua nuova patria. e mamma Miv, ancora una volta, a decidere per tutti, perché si rende conto che nel Galles del Nord non c'è possibilità di lavorare. All'inizio non sa dove andare, sa soltanto che vuole andare. Imprevedibile e un po' pazza, come al solito, fa partire un disco dei Pink Floyd, si siede per terra, i ragazzi al suo fianco, e mette in mezzo un mappamondo ricordo dei suoi sogni di gioventù. Dice a Naomi di farlo girare con una bella spinta e poi invita suo fratello a farlo ancora. Ridono sempre di più, finché lei stessa, di colpo, a interrompere il gioco. Ha pensato, in quel momento di abbandono, a sua madre, di origini australiane. È lì che andranno, nel nuovissimo mondo scoperto da James Cook. E siccome il destino può dare segnali in mille modi, la meta precisa sarà il nuovo Galles del Sud, in una sorta di curiosa continuità geografico-politica. A Naomi Watts, stralunata e provinciale quindicenne con l'ambizione da attrice, la piccola isola dal nome impronunciabile e i nonni gallesi mancano già moltissimo. Ma sa che il suo futuro è qui, tra l'oceano, l'Harbour Bridge e la favolosa Opera House. Se c'è una possibilità che i suoi sogni di ragazza si realizzino, quella città meravigliosa è di sicuro un buon inizio. Quando arrivai in Australia mi cercai una scuola e a Sydney ce ne sono di molto serie. E poi, consigliata da mia mamma, mi misi a cercare anche una scuola di recitazione. La North Sydney Girls High School è un prestigioso e selettivo liceo per ragazze nel Lower North Shore di Sydney. Una scuola difficile, in linea con le sue ambizioni, ma gli inizi sono tutt'altro che semplici. Viene dall'Europa, il suo accento è quello duro dei gallesi del nord. Qualcuno la prende in giro, qualcuno apposta fa finta di non capirla. Fisicamente esile, lo sguardo emaciato e sperduto, sente di avere bisogno di amici. In classe, assieme a lei, c'è una ragazza che le assomiglia un po', ma è più alta, più bella, molto più sicura di sé e con il sorriso smagliante a incorniciare il perfetto viso perlaceo. Nonostante le trasmetta un certo senso di indifferenza, capisce che è disponibile all'amicizia. È Nicole. In quella classe di studentesse serie e rigorose, due ragazze stanno incrociando i loro destini. Come sail your ships around me. And burn your bridges down. We make a little history, baby. Every time you come around. Destini incrociati. A destini incrociati, nei primi anni Ottanta, due studentesse di Sydney, in Australia, sono diventate grandi amiche. Si chiamano Naomi Watts e Nicole Kidman. Hanno una passione comune, la recitazione, e grandi sogni da confidarsi passeggiando nel grande parco della scuola tra una lezione e l'altra. Entrambe li realizzeranno, ma arrivandoci in tempi e percorsi diversi e in qualche modo riuscendo sempre a restare in contatto, incrociando la loro vicenda umana e professionale in giro per il mondo, come spiega Nicole in questa recente intervista. Intendo dire, è fantastico. Fantastico perché io, Russell Crowe, Naomi, tutti noi, insomma, che veniamo da Sydney, ci siamo ritrovati qui a Hollywood, tutti insieme, e abbiamo realizzato quanto piccolo è il mondo. E sai, siamo cresciuti assieme, siamo andati assieme alle feste da ragazzi e avevamo solo 16 anni. La signora Kidman, a cui era stato diagnosticato un cancro, è finalmente fuori pericolo. E adesso che la mamma sta bene, Nicole ha tutta l'energia per ritornare a recitare. Questa volta però non è più da sola. Nonostante quel piglio e quel portamento che mettono in soggezione la maggior parte dei compagni, ha convinto la sua nuova amica, Naomi Watts, a iscriversi con lei a corsi di recitazione del Phillip Street Theatre. Stavamo sempre insieme io e Naomi, a scuola e fuori dalla scuola. Qualche volta lei veniva da me a vedere vecchi film. Stavamo tutti insieme. Lei diceva che mi invidiava un po' perché, anche se sapeva di essere fortunata e di avere una mamma speciale, ha sempre voluto una famiglia un po' più tradizionale. Ma le strade delle due amiche incrociano la loro prima diramazione. Nicole, forte delle precedenti esperienze, è nuovamente scritturata per alcune trascurabili produzioni televisive australiane, grazie alle quali riesce tuttavia a catturare l'attenzione di Terry Hayes, sceneggiatore e produttore noto per aver lanciato Mel Gibson in Interceptor e Mad Max. Hayes sceglie Nicole per la parte di Ray Ingram in un film apparentemente di poche pretese, ma che è destinato a diventare un cult in tutto il mondo, con incassi notevoli anche sul mercato americano. Ore 10, calma piatta. è la grande occasione di Nicole. Al suo fianco l'emergente Billy Zane e il già affermato Sam Neill. Ehi, guarda un po'. È la prima barca in 3 settimane. Orrore e avventura, violenza e coraggio. Il film diretto da Philip Noyce, girato nei pressi della grande barriera corallina, mescola con efficacia il terrore del sequestro di persona, il pericolo sul mare, il rischio sempre ambiguo e torbido di una giovane donna prigioniera di un uomo bello e letale, l'impresa drammatica di tornare liberi grazie all'ingegnosità e alla tenacia. Nicole si prende tutta la scena, mentre la sua amica Naomi, troppo buona per invidiarla, la sostiene con ammirazione. Il film è un successo e lascia presto gli angusti confini australi per arrivare nelle sale di tutto il mondo. L'interpretazione di Nicole non sfugge naturalmente al vigile occhio delle major di Hollywood, che vedono nella ragazza australiana un perfetto mix di classe, bellezza e capacità recitative. Nicole ha 22 anni. E nel più tradizionale degli slogan hollywoodiani pare proprio sia nata una stella. Like a rose under the April snow. I was always certain love would grow. Love ageless and mentre Nicole Kidman è ormai lanciata verso la carriera hollywoodiana, l'amica del cuore, Naomi Watts, dopo alcune audizioni e altrettante delusioni, decide che la recitazione non fa per lei. Lascia la scuola e vola in Giappone per intraprendere la carriera di indossatrice. Ma fisicamente non ha i requisiti adatti per le sfilate e prestare il suo volto per le campagne pubblicitarie non la entusiasma. È il periodo più brutto della sua vita. Lasciai la scuola e mia madre si arrabbiò molto. Comunque partii per il Giappone per fare la modella, ma fu uno dei periodi più tristi della mia vita. Ma feci esperienza, anche se allora promisi che non sarei più stata di fronte a una telecamera. Così, quando tornai a casa, andai a lavorare per un grande magazzino e successivamente per la rivista Follow, come assistente editoriale. Il rientro a casa è malinconico. Neanche rivedere gli amici la consola dalla frustrazione di non sapere cosa ne sarà del proprio futuro. Non che Naomi abbia la pretesa di sapere esattamente come finirà. Ha imparato fin da piccola ad accettare l'incertezza e il cambiamento. E nemmeno è una a cui basta trovare un posto fisso per placare le sue aspettative. Quello che vuole, al di sopra di tutto e tutti, è diventare un'attrice. Ma anche se la sua indole non tende alla rassegnazione, non è facile avere la forza di andare avanti dopo tutti quei no che la stanno convincendo che forse, semplicemente, non è brava. Ma un invito al cinema sta per cambiare di nuovo il corso del suo destino. È il 1989 e a Sydney c'è grande attesa alla premiere di Ore 10 Calma Piatta. Nicole chiama l'amica, è la persona che vuole accanto a sé, la persona che deve stringerle la mano per farle coraggio quando si sentirà ostaggio dei fotografi e dei giornalisti. Si tratta di una doppia occasione. Da un lato è un modo per rivedersi, visto che Nicole è quasi sempre in giro per il mondo a promuovere il film. Dall'altro lato è un buon modo, pensa generosamente Nicole, per presentare pezzi grossi a Naomi. Naomi era la mia più cara amica. Non ci vedevamo mai e mi mancava così tanto. Certo, ci sentivamo al telefono, ma non era la stessa cosa. E poi io volevo aiutarla. Lei aveva smesso di credere in se stessa, ma io in lei credevo moltissimo. Sapevo come recitava e sapevo che era davvero bravissima. La Watts accetta e alla fine della proiezione, tra le molte persone che Nicole le presenta, c'è anche John Digan, regista australiano alle prese con il casting del suo nuovo film Flirting, per il quale ha già scritturato la Kidman. Digan e Naomi si mettono a chiacchierare e lui, prima di andare a salutare un vecchio amico, le dice che l'ha colpito moltissimo e la trova adatta per una parte che ha in mente. Cose che si dicono, complimenti che la stessa Naomi si è sentita fare innumerevoli volte per poi finire sempre nello stesso modo. Lei che si illude e i produttori che, dopo averne decantate le grazie e il talento, si dileguano nel nulla, dimenticandosi completamente della sua esistenza. Ma questa volta Nicole non lascia che succeda, bracca Digan vicino al buffet e mentre lui va avanti a mangiare tartini al salmone, fa un elenco dettagliato dei motivi per cui deve includere assolutamente la sua amica nel cast. Non è una raccomandazione, semplicemente una dritta. Naomi ha una marcia in più. Il giorno dopo, la bionda arrivata dal Galles si ritrova al primo provino veramente importante della sua vita e, come era certa Nicole, lascia tutti senza parole. Quando è finito il provino, Daigan mi ha chiamato per ringraziarmi. Mi ha detto che se io non avessi insistito, avrebbe perso davvero una perla rara. Flirting, commedia giovanile di etichetta indipendente, non varca di molto i confini dell'Australia. Ma Naomi, pur con un ruolo minore, recita al fianco di Nicole e Noah Taylor, il futuro violinista congelato in Lezione 21 di Baricco. E c'è anche Tandy Newton, nota per l'intenso Beloved di Jonathan Demme. All'epoca tutti giovanissimi e destinati a importanti carriere nel cinema. Lo scricciolo biondo ha ripreso coraggio, ma mentre per lei la strada per il successo è ancora a lunga percorrenza, quella di Nicole ormai è decisamente in discesa. Nel 1990 Los Angeles firma infatti per il suo nuovo film, una produzione americana diretta da Tony Scott, che la vede calarsi nei panni di una neurologa impegnata nella riabilitazione di un pilota di Formula NASCAR reduce da un gravissimo incidente. Il film è Giorni di tuono e il pilota è interpretato da un attore già affermato, ma in procinto di diventare una delle star più amate al mondo, Tom Cruise. Tra Tom e Nicole, glamour e bellissimi, è subito colpo di fulmine. Lunghe chiacchierate prima sul set e poi fuori, cene romantiche, passeggiate sotto il cielo della città dove le stelle non brillano solo di notte. A Tom, complessato da una vita per la sua bassezza, non importa che Nicole, dall'alto del suo 1,80 m, possa farlo sfigurare. La vuole per tutta la vita. Pochi mesi dopo il loro primo sguardo, lui è già in ginocchio che chiede a lei, tremante per l'emozione, di sposarlo. Ascoltiamoli nella scena finale di Eyes Wide Shut, il controverso e ultimo film di Stanley Kubrick del 1999, e che sarà anche l'ultimo che la coppia reciterà insieme. Penso che prima dobbiamo ringraziare il destino. Ringraziarlo per averci fatto uscire senza alcun danno da tutte le nostre avventure, sia da quelle vere che da quelle solo sognate. Sei sicura? Senza danno? Se sono sicura. Io lo sono. Solo tanto quanto sono sicura che la realtà di una sola notte, senza contare quella di un'intera vita, corrisponde alla verità. Grazie al matrimonio con Cruise, Nicole è all'improvviso una delle attrici più fotografate e conosciute al mondo. Catapultata nella Mecca del cinema, non può più permettersi di essere la ragazza jeans e maglietta di Sydney. Con i capelli rossi e ricci ormai domati dai migliori hairstylist californiani e il trucco ridisegnato per farle definitivamente perdere l'aspetto adolescenziale di australiana acqua e sapone, la carriera della signora Cruise è in procinto di decollare come il missile che porta il suo stesso nuovo cognome. Billy Bathgate al fianco di Dustin Hoffman nel 91, Cuori e ribelli, epopea western al fianco del marito nel 92, Malis, il sospetto, e poi My Life, sono i titoli che si susseguono nei primi anni 90. Poi, nel 1995, arriva la definitiva consacrazione. In Batman Forever è Chase Meridian, nuova fiamma di Bruce Wayne, diretta da Joel Schumacher, per il più classico dei blockbuster americani. Tuttavia, è in una pellicola apparentemente minore che la Kidman dimostra finalmente di essere qualcosa di più di una splendida donna e moglie raccomandata. Gus Van Sant, geniale e sensibile regista americano, la vuole in Da morire per il ruolo di Susan Stone, giovane donna con il sogno di diventare una star televisiva, che si trasforma nell'assassina di un marito che ne ostacola la carriera. La discesa nella follia omicida di una Kidman inedita, bellissima, insieme inquietante, eppure del tutto persuasiva, le vale la vittoria del suo primo Golden Globe. Destini incrociati. A destini incrociati, due ragazze australiane con molti sogni hanno deciso di realizzarsi attraverso il cinema. Per una, Nicole Kidman, il successo arriva quasi immediato, anche grazie al matrimonio con la star di Hollywood Tom Cruise. Per l'altra, Naomi Watts, la strada si presenta invece più in salita. Dopo aver aiutato l'amica per l'inizio della sua carriera, sarà di nuovo Nicole a tenderle la mano e a convincerla delle sue enormi potenzialità. Naomi ricorda così questo momento. Un'amica dei tempi della scuola mi disse che Nicole aspettava una mia telefonata. La feci e lei fu eccezionale. Mi invitò nel Montana, dove stava girando con Tom Cuori Ribelli. Li raggiunsi con l'aereo privato di Emilio Estevez e pensai che era davvero pazzesco. Fu fantastico. E la cosa che mi colpì di più fu che Nicole era davvero eccitata per la sua vita, ma allo stesso tempo qualche volta si doveva dare dei pizzicotti per sapere che non fosse tutto un sogno. Insomma, non aveva perso la sua semplicità ed eravamo ancora grandi amiche. Nicole, nelle pause di lavorazione di Cuori Ribelli, convince Naomi a non tornare in Australia. È l'America, le dice, il luogo dove anche lei potrà realizzare i suoi sogni. La Watts si lascia convincere. In fondo, non è la prima volta che molla tutto per ricominciare. E in più, a Sydney, ha un lavoro che non le piace e che non è un gran sacrificio abbandonare. Trovare ruoli di qualità per un'attrice australiana sconosciuta e con un solo film alle spalle non è semplice. Naomi, infatti, viene chiamata solo per brevi serie televisive e per numerosi B-movie. Passano gli anni, ma le cose non cambiano. Naomi è in difficoltà, eppure non molla. Questa volta sente che è più vicino del solito, sente che tenendo duro ancora per un po', stringendo i denti per la fatica di tirare a campare con un cachet sempre minimo, qualcosa di buono prima o poi arriverà. Gliel'ha detto anche sua madre, grande fan dell'esoterismo, quando è andata da una vecchia amica per farsi leggere i tarocchi. Dicevano che il destino di Naomi farà presto il suo corso. Forse è solo suggestione, ma almeno è una speranza, e tanto vale crederci. Volevo solo fare l'attrice, solo quello. Ma continuavo ad essere frustrata da ruoli che non significavano nulla. Ma non volevo cedere. Attendevo sempre la telefonata giusta e non arrivava mai. Non ho mai cercato un altro lavoro o provato a fare altro. Sono passata attraverso momenti davvero duri. Non avevo soldi, nemmeno la mia copertura assicurativa. Facevo yoga, andavo alle audizioni, ai corsi e lavoravo duro. Ma le cose non cambiavano. È stato un periodo molto, molto difficile e lungo. Praticamente tutti gli anni 90. Ma gli anni 90 finiscono e con loro finisce anche il matrimonio di Nicole con Cruise. I due divorziano nel 2001. La Kidman entra in crisi, soffrendo molto per il fallimento della sua storia d'amore e per le complicazioni sulla causa di affidamento dei due bambini adottati dalla coppia. Anche la sua carriera di attrice subisce un periodo di arresto e nei due anni seguenti il divorzio non le verrà offerto nessun ruolo di rilievo. Al contrario, nel nuovo millennio per Naomi cambia ogni cosa. Il destino, in questo caso, ha il serafico volto di David Lynch, uno dei più controversi e visionari registi americani. Lynch, reduce da un paio di film non particolarmente riusciti, ha scritto un soggetto suggestivo, onirico, un sogno dentro un sogno giocato sulla partizione freudiana di es, io e superio. Ma ciò che più importa è che la protagonista è descritta da Lynch come un'attrice fallita, intrappolata in una vita infelice. Il ruolo perfetto per Naomi, l'attrice giusta al momento giusto, che il regista sceglie esclusivamente sulla base di una fotografia. Naomi recita il provino con tutta la tensione di anni di frustrazione professionale, ci mette la sua anima, facendo emergere tutta la sua sensibilità di ragazza senza un padre, figlia di molte terre. Il ruolo di Diane è suo. Il film premiato per la regia con la Palma d'Oro a Cannes è Mulholland Drive. Non è una raccomandazione. È lei la ragazza. But it's true, so true. I love you even more than I did before. But darling, what can I do? For you don't love me. And I'll always be. Mulholland Drive, nonostante sia di difficile lettura, diviene presto una pellicola cult pressoché in tutto il mondo, complice anche una conturbante scena di sesso saffico tra la stessa Naomi e la coprotagonista, Laura Herring. Naomi Watts, fino a quel momento considerata solo la sorella un po' sfortunata di Nicole Kidman, più bassa, più piatta, senza compagno fisso e un viso che non si imprime mai nella memoria, entra all'improvviso nell'immaginario collettivo e non si fermerà più. Nel 2002 è sul set del remake del film giapponese The Ring, che solo la sua eccellente interpretazione riesce a far diventare l'ennesimo film di culto. L'anno seguente rientra in patria per affiancare in Ned Kelly un suo connazionale, Heath Ledger. Con lui avrà anche una storia che finirà dopo solo un paio d'anni, ma la loro amicizia rimarrà molto stretta fino alla prematura morte di Ledger nel gennaio 2008. La Watts, che ne rimane sconvolta, ancora oggi dichiara di non averne del tutto superato la perdita. Il 2003, l'anno in cui Naomi Watts stabilizza la sua carriera, è anche quello nel quale Nicole Kidman, ripresasi professionalmente con Moulin Rouge del connazionale Baz Luhrmann, per il quale si impegna con ottimi risultati anche a cantare, e con l'inquietante The Others, raggiunge l'apice, grazie all'indimenticabile interpretazione di Virginia Woolf nel film di Stephen Daldry, The Hours. Qui, per la prima volta, rinuncia a tutta la sua avvenenza, per lasciare spazio solo alle sue capacità recitative. Il ruolo le vale il primo e ad oggi unico Oscar come migliore attrice protagonista. È il coronamento di una carriera. Oh boy. And the Oscar goes to... Alrighty. By a nose, Nicole Kidman. Mentre Nicole riceve l'omaggio di Hollywood, nello stesso 2003, parallelamente, anche Naomi è alle prese con un film che la porterà ad andare molto vicino al grande successo dell'amica. A fianco di Sean Penn e Benicio del Toro, sta infatti girando il drammatico film di Alejandro Iñárritu, 21 grammi. Ancora una volta, una storia difficile, dalle tinte cupe, le porta fortuna. E in attesa, la nomination agli Oscar nel 2004, dove viene sconfitta solo dalla straordinaria interpretazione di Charlize Theron in Monster. Il regista messicano dedica queste parole a Naomi, sintetizzandone le grandi capacità recitative. Naomi, she was a light in the set. Naomi è stata la luce sul set. Lei è una persona bellissima, la sua gamma di espressività è incredibile. Può trasformarsi da una dolce ragazza innocente a un animale selvaggio in 15 secondi. Ha dato tutta se stessa in ogni scena. E lei può essere molto dolce e molto forte, ed è proprio quello che volevo per il personaggio. Ormai ricche e famose, le due star si incontrano spesso e fanno quello che ci si aspetta dalle buone amiche. Si consigliano, escono insieme, parlano di uomini e amori. Nicole, neomamma, si gode la pace di Nashville con il suo bel marito, il cantante country Kate Urban. Non le vengono offerti più ruoli di particolare rilievo, a eccezione di Australia, ancora diretto dall'amico Luhrmann, che celebra la storia recente della loro terra d'origine. Naomi, dimenticati i tempi bui da Cenerentola, che poteva stare solo a guardare i successi dell'amica, è sempre più richiesta da produzioni e registi di assoluto livello. Nel 2005 è la degna sostituta di Jessica Lange nel remake di King Kong, e nel 2007 è contesa da Viggo Mortensen e Vincent Cassel nell'acclamato La promessa dell'assassino. Da qualche mese è noto il suo ingaggio come protagonista di Blonde, il film che la vedrà vestire i panni di Marilyn Monroe. Un ruolo difficile, un'eredità importante. C'è chi dice che Naomi forse ha già superato Nicole, ma a due vere amiche di tutto questo non importa davvero nulla. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.